Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Morena Rossi. In un mondo in cui tutto ormai è accelerazione, cogliere l'essenza dell'istante, così veloce ed effimero, è diventato il nostro modello di presente. Ma non è facile essere contemporanei a se stessi, perché siamo costantemente circondati da cortocircuiti temporali. L'incontro di destini di cui vi parliamo oggi fa parte di uno di quegli attimi di magia in cui il tempo ha ceduto, lasciando spazio allo scorrere degli eventi, e si è fatto incastrare, o meglio, si è lasciato fotografare, dando origine alla contemporaneità assoluta, depositata per sempre in uno scatto. La storia di oggi è una storia dell'inizio della fotografia, ovvero, come dice la parola stessa, fotografia, dell'inizio della scrittura della luce, di raggi che colpiscono l'immaginazione, di libertà e piacere nel cogliere la realtà, nell'immortalarla. Tutto comincia in America, per poi salpare verso l'Europa, nella Ville Lumière, visto che si parla di luce. Ma mettiamo meglio a fuoco la situazione partendo dall'inizio. Au quatrième top, il sera exactement 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Ci sono due motivi per cui io lavoro. Due motivi. Un motivo è il piacere e l'altro motivo è la libertà. Anche se io odio il lavoro, anche quando è un buon lavoro, perché ciò che mi interessa sono le idee. Lui è Emmanuel Radnitsky. Nasce a Filadelfia nel 1890 da genitori russi, come testimonia il suo cognome, e si trasferisce ancora bambino con la famiglia a New York. Quando decide di sintonizzarsi col mondo che lo circonda, non solo dal punto di vista geografico, ma anche culturale e storico, interessandosi al movimento che più tardi verrà definito dadaismo, rimaneggia artisticamente le lettere di Emmanuel e di Radnitsky affidategli all'anagrafe per estrarne uno pseudonimo perfetto, che sarà il suo destino. Man Ray. Man Ray. Per inquadrare cosa si agita sullo sfondo dell'epoca tra il vecchio e il nuovo continente e dare così più senso alle origini del nostro primo protagonista, cominciamo con lo zoomare sul termine Dada e scattiamo la nostra prima fotografia. Siamo al Cabaret Voltaire, locale frequentato da giovani intellettuali della Zurigo del 1916. Ci sono i soliti amici, c'è Hugo Ball, Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Janco e tanti altri. Il malessere per la guerra è forte, la voglia di cambiare tutto, compresa la realtà atroce alla quale sembra aderire il presente, prende il sopravvento e nasce il desiderio di fondare un movimento culturale per combattere tutte le convenzioni. Cercando di spiegare le ragioni della nascita di Dada, Tristan Tzara, autore del manifesto dadaista, in un'intervista alla radio francese concessa nel 1950, ne parla in questo modo. Per comprendere come è nato Dada, è necessario immaginarsi da una parte lo stato d'animo di un gruppo di giovani in quella prigione che era la Svizzera all'epoca della Prima Guerra Mondiale, dall'altra il livello intellettuale dell'arte e della letteratura a quel tempo. Certo, la guerra doveva aver fine e dopo noi ne avremmo viste delle altre. Ma verso il 1916-1917 la guerra sembrava che non dovesse più finire. In più, da lontano, sia per me che per i miei amici, essa prendeva delle proporzioni falsate da una prospettiva troppo larga. Di qui il disgusto e la rivolta. L'impazienza di vivere era grande. Il disgusto si applicava a tutte le forme della civilizzazione cosiddetta moderna, alle sue stesse basi, alla logica, al linguaggio, e la rivolta assumeva dei modi in cui il grottesco e l'assurdo superavano di gran lunga i valori estetici. Contemporaneamente, anche a New York, un gruppo di amici si ritrova non in un locale di svago come il Cabaret Voltaire, ma in una piccola galleria chiamata Galleria 291, diretta da Alfred Stieglitz, un pioniere della fotografia moderna. Sono Marcel Duchamp, Francis Picabia e Man Ray. Oggetto dei loro discorsi, fondare un movimento il cui programma sia quello di demistificare, ironizzando su di essi, tutti i valori costituiti della cultura, attraverso un'azione che esalti la spontaneità creativa e irrazionale di non integrazione dell'artista col mondo che lo circonda. In una parola, Dada. Ma come nasce questa parola? Pare che in una delle serate al Caffè Voltaire qualcuno abbia aperto a caso un dizionario e vi abbia trovato questo termine. Un termine che ricorda qualcosa di primitivo, qualcosa di prima del linguaggio, simile alla lallazione di un bambino che tenta di stabilire un contatto con l'esterno, qualcosa da cui ricominciare a costruire, forse. Oppure, come dice Tristan Tzara nel manifesto, Dada non significa nulla, è solo un prodotto della bocca. Pur avendo l'Atlantico di mezzo, i due movimenti spinti dagli stessi ideali, quello newyorkese e quello svizzero, si fondono intorno agli anni 20, prendendo entrambi definitivamente il nome di Dada. È Parigi ad aspettarli per dar loro la scintilla definitiva. La Parigi del primo dopoguerra, frizzante e stimolante, nei dintorni di Montparnasse, dove nei caffè all'aperto si discute di cultura, di filosofia, di vita, e dove avverrà l'incontro di oggi. Ma mettiamo a fuoco Man Ray e immortaliamolo in alcune istantanee per fissare meglio la sua sete di sperimentazione come uomo e come artista. Nella scelta di apparente spersonalizzazione dello pseudonimo Man, semplicemente uomo, c'è tutto il desiderio dell'artista di disfarsi della struttura per arrivare alla sostanza e ricomporla. Così come ha fatto con alcune lettere del suo nome. Un frammentare per possedere meglio, per creare una nuova verità. E nella scelta di comporre Ray, Raggio, con le lettere del cognome, è scritta la storia della sua carriera di fotografo, di scrittore della luce, di sperimentatore assoluto. Una sorta di previsione anche dell'incontro del destino di cui parliamo oggi e che lo porterà alla scoperta di una nuova tecnica. Tecnica che, come ricorda lui, non è solo metodo, ma è in primis scelta, pensiero. Di sicuro ci sarà sempre chi guarderà solo la tecnica e si chiederà come, mentre altri di natura più curiosa si chiederanno perché. In qualsiasi forma sia rappresentato, alla fine l'oggetto deve divertire, disorientare, annoiare o far riflettere, ma non suscitare ammirazione per la sua perfezione tecnica che abitualmente si cerca nelle opere d'arte. Le strade sono piene di artigiani bravissimi, ma di così pochi sognatori pratici. Per comprendere come Man Ray sia arrivato alla consapevolezza della strada che vuole seguire, si deve fare un po' di luce sulla sua amicizia con Marcel Duchamp, quindi allargare l'inquadratura e scattare un'altra istantanea. Marcel Duchamp è il teorizzatore dell'arte come rendezvous attraverso le sue creazioni, che chiamerà ready-made, letteralmente pronto fatto, dove l'oggetto e l'artista si incontrano senza darsi un vero e proprio appuntamento. E solo nell'istante in cui l'artista riconosce nell'oggetto la forma d'arte, questo diventa arte. Basti pensare alla sua fontana, dove un orinatoio di fabbricazione industriale diventa opera, o la ruota di una bicicletta montata su uno sgabello. Senza parlare della famosissima immagine della Mona Lisa coi baffi, incontro casuale, ma non troppo, con la massima espressione del concetto classico dell'arte. Per Duchamp, l'arte non deve separarsi altezzosamente dalla vita reale, ma confondersi con questa. Il valore del ready-made è nell'idea. Stesso concetto che farà proprio anche Man Ray. Perché j'ai horreur de travailler d'abord per un bon travail. Ce qui m'intéresse des idées. Abolendo qualsiasi significato o valore alla manualità dell'artista, al suo lavoro, l'artista non è più colui che sa fare le cose con le proprie mani, ma colui che sa proporre nuovi significati alle cose, quasi una doppia vita per le cose, come quella che vive lo stesso Immanuel Radnitsky nel suo essere anche e soprattutto Man Ray. Moi je suis un homme qui mène une vie double. Sono un uomo che conduce una doppia vita. E Duchamp, al quale lo lega anche la grande passione per il gioco degli scacchi, a portarlo quindi a rivedere gli oggetti lontani dalla propria funzione primaria, elevandoli a oggetti artistici. Così un giorno Man Ray realizza Cadeau, il famoso ferro da stiro con una riga di chiodi applicata sotto la piastra, e Indestructible Object, il noto metronomo con la foto di un occhio. È il tempo che preme per essere immortalato, per Man Ray. Il tempo che ci guarda con quell'occhio indagatore, che è poi lo stesso occhio con cui il fotografo guarda in macchina prima dello scatto, prima di fissare in un istante la totalità del divenire. O l'occhio dell'artista, che si accinge a mettere su tela un'emozione. L'occhio è l'elemento ricorrente nelle sue opere, frammento di corpo, unità da cui ripartire, scomposizione quantitativa e qualitativa di un viso. Ma l'occhio è diverso se si tratta di quello del pittore o di quello del fotografo. Sentimentale e intimo il primo, reale e pubblico il secondo. Dipingo ciò che non posso fotografare, fotografo ciò che non voglio dipingere. Dipingo l'invisibile, fotografo il visibile. Pieno di contraddizioni, Man Ray, pieno di quella doppia vita di cui va tanto fiero, doppia vita sua e degli oggetti che diventano arte nelle sue mani. Una volta arrivato a Parigi, viene a contatto con André Breton e i surrealisti. Dopo il Dada, è proprio il surrealismo la sua nuova casa, casa che contribuirà a far crescere. La sua sete di sperimentazione è tanta. Gli anni venti sono prolifici dentro e fuori di lui, dal punto di vista artistico e culturale. Sente che non può fermarsi alle intuizioni newyorkesi e così si dedica con spasmodica curiosità a questa nuova arte, vecchia solo di 100 anni, che è la fotografia. Posso fare le stesse cose con la fotografia e con la pittura. Qualcuno dice che è una menzogna, ma io dico che le menzogne di oggi sono le verità di domani. La fotografia sta alla pittura come l'automobile sta al cavallo, sostiene l'artista. Fotografare è un po' come dipingere con la luce. Ed essendo una nuova forma di espressione in quegli anni, è più difficile farla passare come arte vera e propria. Ma la verità di domani sarà proprio questa per Man Ray fotografo. E la Ville Lumière è il posto dove mettere a fuoco meglio il suo desiderio. I suoi scatti, i suoi oggetti d'affezione, come li chiamerà lui, sono l'occasione del reale di vivere la propria doppia verità attraverso il suo occhio. E sarà proprio la fotografia a dare il via alla doppia verità e al destino anche di un'altra persona. Corre lungo il fiume una fotografia e chi la prende la corrente se lo porta via con tutto ciò che resta della fantasia. Se, se. È il 1921. Man Ray, arrivato da poco nella capitale francese, assiste a una scena che lo colpisce particolarmente. Seduto in uno dei tanti bistrò di Montparnasse, al tavolo accanto al suo, vede due ragazze che stanno discutendo animatamente col cameriere. Una di loro, stizzita, si alza, si sfila le scarpe e mette un piede sul tavolo e l'altro sulla sedia, in segno di protesta. In quella foga, la ragazza cerca sostegno nel viso del suo vicino di tavolo e si rivolge proprio a lui, come scriverà poi lei nella sua biografia. Non ci vuole servire perché pensa che siamo due puttane? È Kiki, una cantante e ballerina dei numerosi locali notturni della capitale francese. Basta un'occhiata e il giovane americano se ne invaghisce. La invita così a posare per lui nel suo studio. Diverrà la sua prima modella, assistente e amante, in una relazione che durerà per ben 6 anni. Ritratta in migliaia di foto, Kiki, conosciuta meglio col nome di Kiki de Montparnasse, rappresenta per Man Ray l'oggetto su cui sperimentare la sua arte. Ma sarà un'altra modella, assistente e amante, a dare corso a una serie di eventi che cambieranno la sua tecnica e che lasceranno molto più di un segno su carta fotosensibile nella storia della fotografia. Lasciamo per ora questa immagine sfocata sullo sfondo in attesa di poterla sviluppare più tardi. La più celebre fotografia che ritrae Kiki, questa meravigliosa ragazza bruna di una bellezza audace, è quella dal titolo Violon d'Angre. Una donna seduta nuda di spalle, il suo viso di profilo che cerca di guardare indietro, sulla testa un foulard a nasconderne i capelli. Sembra proprio lo strumento musicale femminile per eccellenza, una viola. A completare il capolavoro della natura, infatti, arriva un'applicazione grafica di Man Ray, due chiavi di violino sui fianchi di Kiki, trasformando le musicali sinuosità della donna in uno strumento da suonare. Immagine che diventerà manifesto dell'intero periodo storico. Per non smentire la sua adesione al surrealismo, decide di darle un titolo evocativo e duplice, Violon d'Angré, che in francese ha anche un altro significato in quegli anni, cioè quello di passatempo. Man Ray ci ripropone ancora una volta la doppia lettura della realtà, la doppia vita degli oggetti e, perché no, il suo passatempo, donne e fotografia. E a proposito di donne, Kiki non è un amante semplice da gestire. Lavorando nei locali notturni non fa che scatenare la gelosia dell'artista. Si esibisce al Jockey e il momento clou dello spettacolo è quando sale su un tavolo e con la testa in giù alza le gambe, ovviamente mostrando a tutti le sue nudità. Lui non manca ad ogni sua esibizione, ma ogni volta stare tra tutta quella gente che la scruta sotto la gonna gli dà fastidio, perché pur essendo la sua donna, sente di non possederla fino in fondo. Lei che è la regina che infiamma le voglie della Parigi bohème ed è entrata dentro a poemi, pièce teatrali, opere d'arte e soprattutto dentro al letto di molti artisti dell'epoca. L'immancabile Hemingway non manca di descriverla così. Ricordo tutto del suo corpo splendidamente bello, della sua voce gradevole, adatta a parlare più che a cantare. Kiki ha certamente dominato l'era di Montparnasse più di quanto la regina Vittoria abbia dominato quella che si chiama era vittoriana. Il fotografo è sempre gelosissimo e non riesce a evitare che lei faccia la civetta coi clienti, il che dà spesso origini a liti plateali tra di loro, dove i due arrivano anche ad alzare le mani. Il corpo, per Man Ray, è veicolo principale del suo progetto estetico. E avere come corpo da disporre proprio quello della sua amante spesso lo destabilizza. Anche se pure lui non può certo dirsi un agnellino dal punto di vista sentimentale col lavoro che fa, venire a contatto con modelle, corpi nudi di donna e quanto di più semplice ci sia. E Kiki lo sa. Infatti una sera, al Café Coupole, Kiki si accorge che una giovane indossatrice americana giunta da poco a Parigi e presentatasi a Man Ray per imparare l'arte della fotografia ha con lui un'intesa che non è solo professionale. La cantante di Montparnasse si scatena in una delle sue scenate di gelosia, scagliando persino addosso a lui piatti e bicchieri. Certo, il sospetto è fondato, cosa che scopriremo solo tra poco, sempre qui, a Destini Incrociati. Eppure per quella sera la lite sarà dimenticata, come succede spesso a Parigi, sotto le lenzuola. Pochi minuti all'alba, i gatti vanno via, è l'ora in cui si sente nostalgia. E vedo i piccoli caffè svegliarsi sui boulevard, la Senna che accarezza la città. Il cuore è quasi fermo e non respiro più, una puttana ride noi, bonjour. Ci avviciniamo in fretta, ma lei è già andata via. Destini incrociati. Siamo a Parigi, sul finire degli anni 20. Man Ray, fotografo di origini americane, ormai affermato nella capitale francese, ha come modella, assistente e amante una cantante e ballerina di locali notturni, Kiki de Montparnasse, la schiena della celebre foto manifesto surrealista con le chiavi di violino. Una sera i due sono al Café Coupole, dove Man Ray deve incontrare una giovane indossatrice da poco arrivata dagli Stati Uniti, che vorrebbe lavorare con lui. Tra di loro non è solo una questione professionale, e Kiki se ne accorge. Difficile rimanere indifferenti di fronte a tanta bellezza. A colei che hanno definito uno spirito libero americano chiuso nel corpo di una dea greca. La giovane modella di cui Kiki è terribilmente gelosa è Lee Miller. Lee Miller. Parigi è il luogo giusto dove far brillare la sua stella. Ha poco più di 20 anni e la spregiudicatezza dell'età si mescola benissimo alla joie de vivre della Ville Lumière di quel periodo, complice anche la sua indiscutibile avvenenza. Se solo si entra nella sua scia luminosa, perché di questo si sta parlando, di una luce che la circonda quasi come un'aura, a volte persino demoniaca, si rimane invischiati. Il gallerista americano Julian Levy, che è stato anche uno dei suoi primi amanti, la descrive così. Tutto in lei era brillante. Il suo spirito, la sua mente, la sua arte di fotografa e i suoi splendenti capelli biondi. Lì, quando arriva a Parigi, è già una donna dal passato ingombrante. Passato che l'ha segnata e che emerge dalla sua inquietudine, che però l'armonia delle linee del suo corpo e del suo viso fanno spesso dimenticare. Man Ray, l'uomo raggio, è l'uomo del destino per lei che la luce la porta nello sguardo. L'occhio indagatore del fotografo che non fotografa la natura degli oggetti, ma il sogno, l'idea che vi sta dietro, la loro doppia verità, vede attraverso di lei e vuole cercare di immortalare quella parte che si cela dietro alla maschera che la vita troppo presto le ha fatto indossare. Prima di mettere a fuoco il loro rapporto, è però necessario scattare qualche istantanea del passato di Elizabeth Miller, detta Lee. Unica figlia femmina fra due maschi, Lee è la prediletta dal padre Theodore, ingegnere per corrispondenza con antenati tedeschi, dai quali ha ereditato la tenacia e la volontà. Ha l'hobby della fotografia e non manca di ritrarre quell'angelo di sua figlia che fin da piccola sembra aver compreso il potere della sua bellezza. Quando ha soli 7 anni, viene mandata a New York a casa di amici, dove avviene il fatto che la segnerà per il resto della sua vita. Sarà violentata dal cognato della padrona di casa. La famiglia Miller cerca di far passare sotto silenzio l'accaduto, ma al danno morale della bimba, per cui la madre cercherà il supporto di uno psichiatra, si aggiunge la realtà della malattia, la gonorrea. All'epoca le cure sono docce interne e irrigazioni dolorosissime. I fratelli sentono le grida strazianti della sorellina chiusa nel bagno con la madre per le applicazioni mattutine e per lì, da allora, niente sarà più come prima, almeno psicologicamente. La gestione del suo corpo diventa irriverente. La maturità le regala forme perfette che esibisce anche davanti all'obiettivo del padre, quasi con una malizia incestuosa. Si sente dissociata da quelle forme, ma ne vuole gestire la dirompenza sugli uomini quasi come un riscatto sulla vita. Come ricorda la scrittrice Carolyn Burke, che ha scritto recentemente una biografia su di lei. Theodore Miller nutre un amore morboso nei confronti della figlia. La fotografa con insistenza come un oggetto feticcio. Non escludo che la libertà sessuale ostentata in seguito da Lee fosse una reazione allo stupro e al rapporto ingabbiante con il padre. Un tentativo estremo di sottrarre il corpo alla volontà altrui per recuperare la propria possibilità d'amare. E quando la famiglia nel 1925 la manda per un viaggio di piacere a Parigi per la prima volta, Lee, non ancora ventenne, si innamora subito della città e decide in quel momento che il suo futuro sarà oltreoceano. Mi bastò un'occhiata a Parigi per dire: è mia, è casa mia. Quasi un presentimento il suo di quello che il destino le riserverà qualche anno più tardi nell'incontro con Man Ray, che in quegli anni è già nella capitale francese. Un cambiamento personale e professionale per entrambi, ma che nel caso della giovane ragazza americana darà l'impulso a una nuova possibilità di amare e di amarsi. J'aime pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. La paix d'être à printemps et le printemps fait l'amour. Mon blé s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien. Dopo quella prima visita a Parigi, Lee Miller torna a casa a New York, ma con un sogno ben preciso: ritornare al più presto in Francia. Un giorno, mentre sta attraversando la strada, un'auto frena bruscamente e lei, impaurita, inciampa sul marciapiede. A sorreggerla, il caso vuole ci sia un signore ben vestito di nome Condé Nast, che, stregato dalla sua bellezza, le chiede di posare per il giornale da lui appena fondato, Vogue. Comincia così la sua carriera di modella. Lei, così irrequieta, si diverte. Il suo anticonformismo l'aiuta a farsi strada da una copertina all'altra di riviste per signore, tra parti e amori irrisolti, alla ricerca della vera Lee Miller, quella che si è persa quando aveva solo 7 anni. Nel frattempo si scruta, si studia, si guarda dentro e fuori. Il suo corpo è negli scatti dei più grandi fotografi dell'epoca, Edward Steichen tra tutti, ma sente che forse vuole di più. E il sogno di essere altro comincia a impadronirsi di lei finché, nel 1929, trova il modo di tornare a Parigi. Steichen la indirizza a Man Ray, il fotografo americano che va per la maggiore in Francia. Lì fa i bagagli e, con una lettera di presentazione scritta dallo stesso Steichen, si presenta allo studio parigino di Man Ray. Gli dissi senza preamboli che ero la sua nuova allieva. Lui rispose che non prendeva allievi e che in ogni caso stava partendo per le vacanze. Lo so, dissi. Vengo con lei. È l'inizio di una relazione professionale che diventerà presto anche sentimentale, soprattutto dopo la serata al Café Coupol, dove Kiki, la precedente musa ispiratrice del fotografo americano, si accorge che tra i due non è solo lavoro. La magia si fonde con la realtà. È una scintilla, un raggio, una luce che illumina il percorso dei nostri due protagonisti. A separarli ci sono 17 lunghi anni, ma l'anima non conosce anagrafe. Lei è il futuro. Sei così giovane, meravigliosa e libera, e io mi odio quando cerco di afferrare ciò che in te ammiro più di ogni altra cosa e che è così raro nelle donne. Man Ray la fotografa soprattutto quando dorme. Sa che non resterà a lungo. Lei è frenetica nelle sue scelte, è vivace e non sa stare ferma. Ha sempre voglia di partire per un luogo, per un'idea, per una nuova avventura amorosa. Lei è così, libera e giovane e meravigliosa, ma lui, con la sua arte, sta cercando di curare la sua vita frammentata da quell'amaro ricordo dell'infanzia. In un certo senso, forse lui sta anche cercando il modo di possederla fino in fondo, facendola prima a pezzi con la macchina fotografica, per ricomporla poi tra le sue braccia. Ne ritrae ogni centimetro, la testa, il collo, un occhio, le labbra, il busto, le gambe. Disintegra il suo meraviglioso corpo, quasi in un puzzle che l'immaginazione può poi costruire a suo piacimento, rimarginando virtualmente sulla carta le ferite che hanno mandato in frantumi la sua anima. Lì, per la prima volta, si sente semplicemente nuda e non spogliata davanti a una macchina fotografica. Ma lei sa come muoversi anche da assistente. La fotografia le piace. Vorrebbe poter stare dall'altra parte dell'obiettivo e vede in Man Ray l'uomo che può darle anche questa forza. Mi insegnò a fare le foto di moda. Mi insegnò a fare i ritratti. Mi insegnò tutta la tecnica che conosceva. Il sodalizio ora si fa più interessante. L'anticonformismo e la voglia di sperimentare nuove vite della giovane modella americana si combinano perfettamente col dichiarato desiderio di sovvertimento delle regole dell'affermato fotografo surrealista, che una volta di più decide di vivere il momento, senza ipotecare il futuro di nessuno, tantomeno quello di un essere così libero come quello di Lee. In fondo lui è così. Lavora per il piacere e la libertà. Lavora da sempre per il momento. E il momento adesso si chiama Lee Miller. Je travaille pour maintenant, à l'instant même. Io lavoro per il momento. Mi piace il vero istante. Non mi preoccupo di ciò che dirà il futuro. For Lee Miller. In the bleak washroom, it's motel cramp. Your elf's face, cynical, tired. The metronome poised below your eyes. Damsel out of Picasso. Glow dim that has flooded the dark rooms of so many hearts. Luminous one. Destini incrociati. Siamo a Parigi e siamo agli inizi degli anni 30. Il fotografo americano Man Ray sta dando lezioni alla sua giovane modella, assistente e amante Lee Miller sull'arte moderna per eccellenza, la fotografia. Lei vuole sperimentare la sua curiosità del mondo e della vita, anche stando dall'altra parte dell'obiettivo, e lui la segue nel suo apprendistato. Dopo aver fotografato ogni angolo del suo splendido corpo e averne assaporato le infinite spigolature dell'anima inquieta, Man Ray vuole lasciarsi trasportare da questa nuova musa, dalla sua ingenuità e freschezza, fin dove deciderà lei. Come ricorda Carolyn Burke, autrice di una biografia sulla Miller, il talento, ma anche il fascino, sono dalla sua parte. E soprattutto lei è consapevole della sua bellezza e la usa con grande astuzia. Mi piace il suo eclettismo e il fatto che non si preoccupasse della sua preparazione didattica prima di iniziare un'attività e una carriera. Inoltre, era abilissima nel conquistare gli uomini che le piacevano. Lee voleva diventare una fotografa. Voleva invertire il rapporto con il mondo, mettendosi dall'altra parte. Parigi l'ha accolta tra le sue braccia, e non solo attraverso quelle del connazionale Man Ray, ma anche attraverso quelle di altri grandi dell'epoca, con i quali la Miller, grazie anche alla relazione col fotografo, entra in contatto, come Picasso, che più tardi la ritrarrà nella serie L'Arlésienne. Una sera, inoltre, mentre al tavolo del Café Le Boeuf, in Rue Boissy d'Anglais, a discutere di fotografia col suo mentore e amante, incontra Jean Cocteau, che sta cercando una donna per far parte di una statua nel suo film, Le Sang d'un Poète. I suoi ludici capelli biondi, il suo profilo greco, il collo statuario e la pelle diafana, per non parlare di quella luce nei suoi occhi a metà tra il demone e l'angelo, fanno sì che la parte sia immediatamente sua. È il suo primo ed unico film, e ancora non sa che 15 anni dopo proprio Cocteau sarà davanti al suo obiettivo per farsi immortalare. Tu crois que c'est si simple de se débarrasser d'une blessure, de fermer la bouche. E vicino a lei quella sera sempre lui, Man Ray. Lavorano fianco a fianco ormai. La passione amorosa lascia spesso spazio a quella per la fotografia. E insieme sviluppano pellicole, creano nuovi soggetti. Lei pende dalle labbra del suo maestro, mentre lui sta pensando a come rendere eterne quelle della sua musa. Con il quadro Observatory Time the Lovers ci riuscirà, dipingendo la sua bocca nel cielo e scrivendo una poesia sull'amore cosmico rappresentato grazie a lei. Alle 7 del mattino, prima di soddisfare una fame immaginaria, il sole non ha ancora deciso se sorgere o tramontare. La tua bocca viene a soppiantare tutte queste indecisioni. Unica realtà che dà valore al sogno e ripugna al risveglio. Essa rimane sospesa nel vuoto, fra due corpi. La tua bocca stessa diventa due corpi, separati da un orizzonte sottile, come la terra e il cielo, come te e me. Ecco che un giorno avviene la magia. I due sono in camera oscura. Lee fa da assistente. Le piace vedere come emergono lentamente le immagini sulla carta. Il momento in cui il fotografo ha la percezione di ciò che ha fatto, di quale porzione di tempo è riuscito a intrappolare. Quando per sbaglio espone alla luce i negativi di alcuni nudi di una cantante dell'epoca fatti da Man Ray. Un attimo di panico, poi di comune accordo decidono di stampare lo stesso le foto. Il risultato è sorprendente. Uno scambio di bianchi e neri che crea un effetto visivo dirompente, dove i contorni della figura sono illuminati quasi da un'aura, un raggio. Sembra essere la concretizzazione della luce che circonda da sempre anche lei. Come ricorda Anthony Penrose, figlio di Lee Miller. Stava lavorando nello studio di Man Ray quando mi ha raccontato lei. Per sbaglio ha esposto alla luce dei negativi. Man Ray ha esitato un attimo, poi ha deciso di metterli comunque a sviluppare. La sorpresa fu incredibile per entrambi. È nata così la tecnica della solarizzazione. Man Ray non è nuovo a sperimentazioni di questo genere. Famosi sono già i suoi rayogrammi, oggetti posizionati sulla carta fotosensibile che lasciano le loro impronte senza passare per l'obiettivo. Una sorta di arte a metà tra la fotografia e la pittura. Ma questa cosa è diversa. Qui c'è la scelta dell'occhio del fotografo e poi la casualità della luce. La tecnica verrà chiamata solarizzazione, in onore della cantante ritratta negli scatti esposti inavvertitamente, Suzy Solidor. Je l'ai rencontré vers le nord un soir d'escale sur un port dans un bastringue abominable. L'air sentait la sueur et l'alcool. Il ne portait pas de faux col mais un douteux foulard de soie. En entrant je n'ai vu que lui et mon cœur en fut ébloui de joie. Adesso Man Ray ha la sua nuova tecnica, quella davanti alla quale, come ricorda lui, bisogna chiedersi perché e non come. E il suo perché si chiama Lee Miller. Lei, dal canto suo, ha bevuto ogni goccia del sapere del grande fotografo surrealista e ora cerca la sua strada, anche lei come fotografa. La storia tra i due ovviamente finisce. Il destino ha scattato la sua istantanea, ha fissato l'attimo nell'anima dei due. Adesso lei deve andare a scattare le sue foto, a stampare i suoi fogli d'eternità, a cogliere la sua contemporaneità. E la storia non si fa attendere. È il 1933 e nella vicina Germania Hitler tiene i suoi primi discorsi. Arriva in quegli stessi anni anche l'uomo che la porta via da Man Ray. Si chiama Aziz Louis Bey ed è egiziano. Si sposano e la permanenza in Egitto permette alla Miller di fare i suoi primi scatti di viaggio. Ma la sua inquietudine aumenta, vuole di più, vuole tutto. Vuole lasciare il suo segno. Nel 1937, durante un viaggio in Inghilterra, incontra Roland Penrose, pittore e collezionista d'arte, che sta cercando di importare a Londra il surrealismo. Lui ha già visto le labbra di Lee nel quadro di Man Ray e conoscerla dal vivo è una rivelazione. Si innamorano e appena in tempo per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale lei molla l'Egitto e si trasferisce in Gran Bretagna. Qui si rende conto immediatamente che quello di cui ha sempre avuto bisogno è proprio questo, un conflitto. Vuole buttarcisi a capofitto. Così ottiene da Vogue un accredito come corrispondente di guerra. Davanti alla guerra, Lee si trasforma. Lavora per giorni senza fermarsi, solo con la macchina a tracolla e un taccuino dove annotare pensieri. Avevo con me solo i vestiti che indossavo, una ventina di pellicole e una coperta. Ero l'unico fotografo per molte miglia all'intorno. E finalmente avevo la mia guerra personale. I suoi bei capelli biondi ora sono sporchi e in disordine. Il suo viso è segnato dall'orrore che passa dal suo obiettivo. Beve per dimenticare, impara a masticare tabacco e instancabilmente scruta la realtà, afferra la storia, cerca di fendere con i suoi scatti il presente, sperando di vederci un futuro per sé, per l'umanità. Fotografa la liberazione di Parigi e una volta là vola in uniforme da Picasso, dal quale si sentirà dire: ecco, il primo soldato alleato che vedo sei tu. Fotografa l'avanzata americana in Germania. È la prima donna fotografa a entrare a Dachau. Fotografa volti martoriati dalle sofferenze. Cerca i visi delle persone. Cerca appunto le persone e non i corpi, per ridare in un certo senso ai morti la loro personalità per un'ultima volta. Fotografa tutto. Le foto spedite a Vogue non saranno tutte pubblicate perché troppo forti. Le spedirà accompagnate da un telegramma. Vi imploro di credere che è tutto vero. È diventata un occhio sempre aperto. La guerra la disgusta, ma sembra esserle necessaria anche quando è finita. Infatti, in un attimo, ecco lo scatto di una vita, la sua vittoria, di qua e di là dall'obiettivo, la doppia verità delle cose, come ce la racconta il figlio Anthony. La cosa più importante fu la fotografia a Monaco nella vasca del Führer. Al ritorno dalla visita a Dachau, entrò nel bagno di Hitler per lavare dal suo corpo la polvere di Dachau. Fu una specie di rivincita per lei, una vittoria. I suoi scarponi da guerriera impolverati sul tappeto, una scultura di nudo di donna sul tavolino di fianco alla vasca, una foto di Hitler appoggiata al muro e lei in carne ed ossa nell'acqua con una spugna mentre si lava. Eccola, la contemporaneità assoluta, quella che ogni fotografo cerca di cogliere con uno scatto, il guizzo che sarebbe tanto piaciuto a Man Ray. Dal suo obiettivo passeranno poi molte delle icone dello spettacolo e della cultura del tempo, da Chaplin a Magritte, da Picasso allo stesso Man Ray, dei quali cercherà, a modo suo, di cogliere il lato più inatteso e destabilizzante, come la sua vita. Lascerà la fotografia e finirà i suoi giorni nel Sussex a cucinare. Anche il suo maestro, alla fine della sua vita, lascerà la fotografia e si dedicherà soprattutto alla pittura. Forse per chi ha messo così a fuoco la propria essenza, riposare gli occhi dell'anima a un certo punto diventa una necessità. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.